sono un bambino vivace, molto vivace, anzi, vi canterò un rap piccante, molto piccante, anzi. Tempesta, ma non combino guai, sono pieno di energia e non mi fermo mai. Un vero peperino per gli amici Pep. La colazione brucia, nel cappuccino bollente, salsiccia piccante. Mi dà voce per cantare questo rap del Pep. Rosso di sera, rosso di mattina, quando vedo il rosso ne mangio più e non posso. Mi viene l'appetito con il messicano o sudamericano, ma sono tutto pepe, faccio rap in italiano. Resto senza fiato, il piccante, invitante, che sapore bruciante, cioccolato piccante. Mi dà voce per cantare questo rap del Pep. Rosso di sera, rosso di mattina, quando vedo il rosso ne mangio più ne posso. Re del Pep. Peperoncino rap. Con un cuore che ha un eccesso di felicità, da, da. Il peperoncino va bene, il contadino va bene, la maestra. Il peperoncino, che benedizione, a vigile va bene. Lo mangio pure mamma, lo mangio mio papà. Io lo mangio sempre, mi fa cantare bene, diventa trascinante, lo